cuánto en grande de escucharlo de la esposa la pretoriana lì. Mi ha detto di andare immediatamente a prenotare, perché altrimenti non fanno in tempo per arrivare. Immediatamente, cioè adesso. Che cosa è che dovete prenotare? Dovete prenotare, per quanto riguarda il modulo alto, e poi il tabier, cantatore, prosto d'opera, ma qui è relativamente più facile, perché italiano lo dicono, cantatore 2003. Quello che è più problematico è per Valeri di Busa, però l'ho ordinato lì qualche copia, ma insomma dovete ordinarlo oggi. Mi ha arrivato qualche cosa, se mi raccomando, eccetera. Di Busa, B-O-U-R, lungo, e a Busa, pur Valeri, le sujet de l'écriture, Armattan con l'H, Armattan 2000. E poi, quest'altro, che invece è molto più facile da far arrivare, Autorivari, quel convegno sul simbolismo, dove c'è anche una cosa mia, tra l'altro, Polvere di esistenza del simbolismo, e questa di Bussoni. Però questi lì, com'è? No, dicevo, quest'altro da ordinare. Sì, perché Valeria ha questi due libri, Bussoni e gli Autorivari. Ah. Mentre i due libri del Polo A sono il Tadier e vabbè, no, niente, sono in cantiere fuori, no? No, perché chiede il modulo A per com'è il libro poi non avete il modulo mattino, no, perché l'avete fatto, quindi sono qui, partiamo. Allora, io non ricordo bene l'altra volta, questa è una domanda, in modo di cazzo, forse già la vedo come faccia che mi sono già per le analisi già vedo una faccia che mi sono così per confrontare e dove era la faccia? 86 ah ecco sì. Questa è una, devo dire, ripensandoci dopo un pensiero bellissimo ed è questo, però ricordo, il pensiero dice questo, qual è la differenza tra la prosa e la poesia? Ecco, la poesia è ciò che è eccessivo, è ciò che non si lascia, non c'è nessuno che ha un cellulare acceso, guardate un po', c'è qualcuno che ce l'ha, maledetti, poveracci. La poesia ha un qualcosa in sé di irriducibile. Abbiamo citato, secondo i modi di Valeri, come esempio della prosa, quelle espressioni che, ricordate, hanno fondato il Partito Democratico. Cioè, che cosa è la prosa? La prosa è una struttura espressiva in cui il significato, una volta che si è nucleato, rende totalmente inutile l'espressione. Quando io ho capito che hanno fondato il Partito Democratico, allora l'espressione non conta più, va bene? Ma se io dico la bocca mi baciò tutto tremante, questo era l'esempio che facevamo, dopo che io ho capito che c'è Francesca Larini che viene baciata sulla bocca da Paolo Malatesta, continua a rimanere questa immagine e questo verso che viene immaginabile. Quindi la prosa è irriducibile e la poesia è. La prosa è irriducibile, la poesia no. Però si combinano le due cose, nel senso che nello stesso tessuto narrativo ci possono essere momenti di poesia e momenti di prosa. Tutto questo è molto interessante, per esempio nel caso di Proust, la pagina che stiamo considerando, ci sono proprio momenti di questo genere, momenti di poesia, no? D'altra parte noi lo diciamo anche tranquillamente, considerando qualunque testo, addio monti sorgenti dall'acqua elevate al cielo, i manzoni, quello che cos'è? Prosa o poesia? Capite? Ecco, comunque perché lui fa questa distinzione? Perché fa questa distinzione? E per dirci quanto segue, per dirci quanto segue, che c'è nella poesia, c'è la poesia, un quantum di irriducibilità. Di riducibilità che ha a che fare con il problema del senso. il senso della poesia non è semplicemente il senso che diventa l'autore, ma il senso che conquista il lettore. Questo è il più importante pensiero, il più grosso pensiero che abbia costruito Valerio, quello che riguarda la partecipazione del lettore alla costruzione del senso. Su questo poi si è espropriato, si è usata questa concezione in molti modi, molti modi anche non legittimi, ma certamente lui ritiene che il senso non sia semplicemente affare dell'autore. E dice anche l'altra frase che vorrei che vi ricordate, il mia fa de l'essence del texte, non c'è vero senso di un testo, proprio perché il lettore deve concorrere a questa costruzione del senso. Va bene, è questo che volevo dirvi, adesso passiamo al pensiero successivo, a pagina 88, che è il numero 24, e come numero 24, e che è: bisogna essere singolarmente stupidi per attribuire a un poeta i sentimenti che compaiono nei suoi versi, e bisogna che nei versi siano singolarmente brutti perché possano esprimere, tra virgolette, i sentimenti dell'autore, almeno quelli che lui crede di avere. Allora, qui abbiamo una formulazione che è abbastanza tipica di Valeri. Sono formulazioni paradossali, da prendere un po' con le pinze, che hanno un significato di fondo a cui lui crede che è condivisibile, però non corrispondono, però non sono accettabili completamente, e altro elemento, non sono neanche cose che lui dice da lui stesso praticate. No? Prima non sono accettabili completamente e secondo non sono da lui stesso radicati, però il significato di fondo è quello che a lui dà fuori. Allora lui dice questo: se tu trovi dei sentimenti espressi in una poesia, non è assolutamente detto che l'autore provi questi sentimenti. L'autore sta, il poeta sta costruendo una situazione che lo commuove e che può commuovere l'eventuale lettore, ma non è detto che lui la partecipa. Vediamo in che misura questo è vero. In che misura questo è vero? Certo, qual è l'aspetto negativo del ragazzotto o della ragazzotta che fa poesia? È che il ragazzo l'ha mollata e scrive una poesia sul suo amore perduto, no? Allora qui vediamo che l'importanza della letteratura è ridotta a zero. Questo semplicemente, siccome abbiamo detto che i versi sono delle parole in cui a un certo punto uno va a capo, questa in senso versi scrive quello che gli è capitato. Ma questa non è vera. La Gepak è l'opera più nota di Valeri. Nella Gepak si parla di una donna che acquista la coscienza di sé attraverso un contatto col proprio corpo, cioè anche attraverso un contatto con il proprio corpo, cioè in buona sostanza in una situazione autoerotica. Se vogliamo dire, sarebbe un po' infidelina la questione, in una situazione masturbatoria in senso ampio. E allora il lettore potrebbe dire: ma come? Ma la Jeanne d'Arc è Valéry? Lui partecipa a questi sentimenti? Non è detto. Se a lui fosse venuto in mente, e ci sono dei motivi, di costruire questa situazione di una donna, eccetera, poi Valéry tra l'altro ha detto che ci forse qui togliamo del vero dicendo che la donna non c'entra niente con lui, perché Valéry è un uomo assolutamente antierotico, difficile essere i più antierotici di Valéry. Poi molto in più, sicuramente, il tuo occhio. Dove è che Valeria Torto? A Valeria Torto nel dire che questo principio vale in assoluto. Perché? Se io dico Placida notte nel secondo raggio della cadente luna, cioè l'ultimo canto di Sappho e Leopardi, e c'è Sappho che soffre per la sua solitudine, qui Sappho è Giacomo, il poeta. Se io dico dove sei tu, Nerina, o più, prendiamo Silvia, Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua libertà, il tempo della tua vita perduta, mortale, il tempo della tua vita mortale, bella, così un po'. Quando le stai, le vera, gli occhi fuori, ridente. Allora, cosa possiamo pensare? Che Leopardi non ci sia dentro questi versi? No? Che non ci sia lui con la sua tenerezza nei confronti di Silvia Fattorini, che adesso è diventata Silvia semplicemente. Tutto questo non ha senso. Nella sua voglia di scientificità della letteratura, Valeria ha fatto delle cose fondamentali, cioè ha creato l'autonomia della letteratura. Ma non possiamo esagerare. L'io dello scrittore c'è, questo è il punto. E allora dobbiamo sentire i suggerimenti di Valerie utili nella misura in cui costruiscono una teoria della letteratura. È un'autonomia di fatto letterario. Però l'io c'è, quindi dire che uno scriva, quindi rimembri ancora e non partecipi, assurdo, bisogna essere singolarmente sciocchi per attribuire a un poeta i sentimenti che compaiono nei suoi versi. Allora io dico, se le cose stanno così, che Leopardi non è in Silvia, Vaghe Stelle nell'Orsa non è lì, no? Sempre caro fu quell'ermo colle, no? Allora dico che non c'è nell'infinito, lo voglio capire che questo è assurdo, però noi dobbiamo prendere nella sua tinta paradossale queste affermazioni. Partiamo oltre. Io ho scritto, come dico letto, il poeta non prova quei sentimenti, punto interrogativo. Il poeta non prova quei sentimenti, questo è il titolo di questo capitoletto. Partiamo a questo, al 25, che è meraviglioso. La vera origine di una poesia. È impossibile riconoscere all'espressione, all'analisi di una poesia, qualunque sia la sua scelta, se deve la sua origine, attenzione, A, B, a un disegno anteriore a ogni esecuzione, e casomine, oppure se non è nato da una rima che ne desidera un'altra. Questa è la posizione B. Quindi se deve la sua origine a un disegno anteriore a ogni esecuzione che lo domina, oppure se è nato da una rima che ne desidera un'altra. Un certo distico si spiega con una quartina, quella quartina non basta però, e allora ne seguono delle pagine. Questo in generale. Alla fine si ritiene che il poeta abbia avuto una intenzione e non si saprà mai in quali state l'abbia avuta. Così è di ogni opera umana e nessuno può sapere. Per dare a questa osservazione tutta la sua intenzione, basta notare che se un'opera deriva da un progetto anteriore, utilizzate la nostra carrozza, prendete la carrozza appunto. Se l'opera deriva da un progetto anteriore, questo stesso progetto deve la sua origine a un incontro simile a quello di due rime, ma molto più casuale, di nascondere a lui stesso quel che si chiama percezione di un'opera, non è che la dissimulazione della sua vera generazione. Compiere, in questo senso, è buttare via, è capotere, è mettere da parte le tracce del lavoro, le bavure, le spalature e l'andare a bastone, rendere quanto più si può intellegibile il procedimento della generazione, rendere inaccessibile l'approccio, sopprimere, traduciamo così l'espressione che avete davanti, sopprimere tutto ciò che ci può far scoprire il traguardo, traduciamo in modo libero, tutto ciò che ci può far scoprire il traguardo. Questa è bellissima, questa considerazione, e attiro adesso la vostra attenzione su queste cose. Dunque, un'opera poetica, stiamo parlando della poesia, una poesia. A che cosa deve la sua poesia? La deve a un progetto, no? A un progetto. Per esempio, ricordate i Leopardi, la conoscete tutti, le ricordate i Leopardi, la conoscete, varie stelle dell'orso. Il poeta sta ricordando la sua infanzia, la sua adolescenza, la melanconia profonda della sua vita, e non pensava di ritrovarsi nella casa paterna a rivedere queste cose che stanno testando così profondamente il suo spirito. Quindi questa poesia è il frutto di un progetto. Ma che poesia che sia frutto solo di un progetto? Mettiamo, io lo so, e nessuno lo sa, ma mettiamo che lui avesse avuto in mente questa espressione. Non mi copri, per inventarlo così. Vaghe stelle dell'orso. Bellissima questa espressione. Vago, in latino vuol dire bella. Stelle, ma non stelle sparse del cielo, ma le stelle che fanno parte di una costellazione realizzata da te opera, l'orso maggiore, l'orso minore, vero? Vaghe, belle, belle, ma belle non è vaghe, vaghe che cos'è? Cos'è vaghe? No, il vago aspetto di una donna. Ma no, ma non vede parlare di portiere, il vago non può essere ciò, no, no, no. Grazioso, avvenente, avvenente. Ora detto tutto questo, per delle stelle può sembrare un po' strano, no? Delle stelle, ma le stelle vengono come personificate, allora dice vaghe stelle dell'orso, stelle che sono in alto, irraggiungibili, ma mettiamo che sia piaciuta questa espressione. Lui non aveva in mano nient'altro che questa espressione, no? E di lì è nato tutto. Cioè, non il progetto lo avrebbe guidato verso questa poesia, ma semplicemente questa espressione, vaghe stelle del sole. Facevo un esempio l'altra volta del titolo di Mallarmé, Eros. Qui lo dice Mallarmé, io non avevo in mano, diceva Mallarmé, nient'altro che una parola, che un nome. C'era eroe, Eros, Diaz, che poteva essere Diaben, Diaman. Adesso era bello e odiato. E poi non è stato, aveva soltanto odiato. Vi ho citato un verso insensato, tra i versi insensati, che mi era venuto ultimamente, tanti anni fa, avevo 18 anni, lo ricordate come bimba perduta in giovinezza. E che vuol dire? Non vuol dire niente. Ma se io decidessi, nel tempo libero di costruire una poesia su questo verso, e lo potete capire, come bimba perduta in gioventù, come avevamo le volte scorse, vi ricordate? Chi è questa bimba perduta in gioventù? Ma sapete che io adesso che ci sto pensando, io so perché, è la prima volta che lo pensavo, so perché ho fatto questo verso, è la prima volta nella mia vita. L'ho fatto perché avevo letto un libro che si chiama Ritratto di Genova, non ricordo l'autore, era un libretto, ritratto di genere, in cui c'era un uomo che era innamorato di una bambina. Una bambina. E poi la vedeva, e al secondo appuntamento questa era bellissima. Non era più una bambina, al secondo appuntamento non era ancora. E no, era un pittore, lui era un pittore. Era un pittore e aveva usato questa bambina, bellissima la storia, splendida, come modella, come modella. Soltanto che, ma che succede? Una storia all'aria, e ogni volta che andava a posare vedeva che era diventata da 10 a 13 a 15 anni e a un certo momento era diventata grande, era una donna, finché è morta, Robert Nata, Robert Nata, ritratto di genere, era un libro degli anni vecchi, credo. E allora la bimba perduta in giovinezza, anche se io lo so in questo momento che lo sto dicendo, non ci ho mai pensato questo, forse c'è di lì, ma non so, la cosa importante è questa. La cosa importante è che una politica può avere come base un progetto, ricordare la chiesa passata, ricordare, oppure semplicemente una parola, va bene? Ma, seconda considerazione, può anche darsi che il progetto stesso nasca non più che da una parola. Il progetto di fare la Herodiad, di fare la storia di Herodiad, nasce dal nome Herodiad. Che cosa si sa, dice Valerio, sull'origine di un progetto? E poi dice una frase molto significante, dice, in fondo questo riguarda qualunque caso umano, non si sa mai un progetto di qualsiasi genere, da che cosa possa essere stato prodotto. E poi riprende il discorso e dice così. Se un'opera nasce da un progetto, questo progetto deve avere la sua origine in un incontro qualunque, futile magari, no? Futile. Ecco. Mettiamo che io abbia un progetto di scrivere su una donna, che non incontrerò mai più, però mi sono scalto e bluì, a prima vista. Va bene? Questo progetto è nato dal fatto che mentre mi trovavo sul metro all'altezza di un miglio quadrato, ho visto una ragazza che non avrei mai visto più. Allora, una cosa così piccola, così utile, mi ha fatto venire in mente questo progetto. Mi ha fatto venire in mente questo progetto. Voi sentite che detta in questo modo la cosa è molto affascinante, nel senso che tutta la nostra vita intellettuale e creativa, e naturalmente quello segnalamente dell'artista, è poggiata, può essere poggiata, o in considerazioni più grosse, oppure sul nulla, oppure sul nulla. Mentre sono alla mia scrivania, sento, in una giornata estiva, sento un cane che abbaia in lontananza. Ma questo cane che abbaia in lontananza, abbaia perché sono andati tutti al mare e hanno lasciato il cane, bastardi, l'hanno lasciato solo il cane, no? Mi sta ricordando un altro abbaiare, altri latrati che sentivo in tempi lontani. Cioè, il nostro pensiero, secondo questi libri, il nostro pensiero creativo, può essere assolutamente casuale, basato sul caso. Che cosa fa l'artista? L'artista fa una cosa interessante, cioè cerca di nascondere le origini effettive. Perché? Perché cerca di nascondere? A mio modo di vedere per due motivi. Il primo è che si rende così più seducente. La seduzione, quindi una cosa che l'artista deve sommamente mirare, evidentemente, la seduzione nasce quando noi non vediamo tutto, questo sarà la sua vita, no? Quello, il motivo per cui servirebbe, non lo so, non riusciamo a trovare minimamente all'interno, soddisfacente, le vedime, lo trovate sedicente, in modo di visitare, io vi dico una cosa per dire. Cos'era? Basta, ho visto queste, no? Ma che cosa c'è di seducente? Ma che cosa c'è di seducente? Io ho avuto come allieva una mia città che aveva raccontato, molto brava, la Tania Santana, era lì. Poi si è veramente scomparso la scena, ho visto io, ma ti fanno sognare? Ma che cos'è che ti fa sognare? Non lo so. Ma ti fa sognare quello che non sei, quello che non è esplicito. No? Il ragazzo di Bordier, sono stato al mare e senza pericciotto, c'erano certi giovanotti, che erano tatuati. Ma anche il palla, erano tatuati tutti, comuni con i bicipiti. Ma ha capito cosa vuol dire? Ma che ti rappresenta? Quello che dicevo, la persona che stava a piangere, dice, ma che ti rappresenta? Certe ragazze, era tutto squadernato, non era squadernato che ci interessa. Una persona con poco di intelligenza. Non sono questi discorsi che io dico la cielo, spero corrompa per Dio, nel senso che voi rifiutiate lo squadernato, ha capito? Il volgare, lo squadernato, il tatuaggio, è cosa che lei spesso appena o vorrei trovare nella mia vita, un uomo, tatuaggio, no, spesso, tutto quello che è esplicito ci annoia, ci sembra stupido, quindi perché l'artista cerca di nascondere? Perché è un seduttivo, ma non solo. Perché se nasconde, rende il suo messaggio, se nasconde l'origine vera, va bene, rende il suo messaggio più ambiguo e quindi più universale. Nel senso che ognuno ci può mettere dei suoi significati, può dare dei suoi contributi. Quindi il bisogno di universalità per un verso, e dall'altra parte il bisogno di seduzione, è quello che fa sì che l'artista tenti di nascondere il suo lavoro. Voltate la pagina, siamo al 26, la pagina è 93. Sì. Questa è una cosa meravigliosa. Che cosa diventa poesia? È difficile. Adesso vengo un po' di mezzo di pace. È difficile. Che cos'è che diventa poesia? No? Questa parte delle idee che non può mettersi in prosa, quella parte delle idee che non può mettersi in prosa, si mette in verso. Se la trova in prosa, chiede dei versi. E sembra un verso che non ci sia potuto fare ancora. Quali sono le idee che vanno a finire in poesia? Quali sono le idee che vanno a finire in poesia? Hanno fondato il Partito Democratico. È l'idea che può andare nel poesia. Cos'è l'idea che può andare a finire in poesia? Segue? Lei considera che è un ospite. La capisce però quello che sto dicendo? Parzialmente. Questo pensiero vi va da soli questa giornata. se lo capite prima. Queste sono le idee che diventano politiche, quelle che sono legate a un movimento troppo, ripetiamo, vivace, ritmico o irriflesso. Vivace. Sapete, ci sono delle cose che sono dentro di noi che chiedono di venire fuori, chiedono di manifestarsi, sono legate al nostro sentire, ai nostri sentimenti, ma non solo alle nostre impazienze, forse alle nostre nevrosi. La poesia è un qualcosa di eccessivo, abbiamo visto, che chiede di venire fuori, di aprire. È un qualcosa di ritmico, e questo è molto facile, e di irreflesso del pensiero, nel senso che non c'è necessità di un'adeguata riflessione perché venga fuori. Punta, viene fuori come naturalmente. Facciamo un esempio. Dice, la metafora, per esempio, segna il suo principio ingenuo, segna nel suo principio ingenuo un andare a tastoni, un'esitazione tra parecchie espressioni di un pensiero, un'impotenza esplosiva e che oltrepassa la potenza necessaria e sufficiente. Quando si avrà ripreso e precisato il pensiero nel suo rigore, la metafora sarà cancellata. La metafora è sicuramente un luogo di perfetto ritmo. Abbiamo detto che soltanto la parte del pensiero viva o ritmica o irriflessa può diventare poesia. E qui lui parla di metafora. Anche se la metafora che io, la più facile metafora che io cito sempre, una metafora semplicissima, è questa. Io voglio dire che Achille è veloce. Achille è veloce, cioè non Achille è veloce. Ma non dico che Achille è veloce. Dico che Achille è veloce, faccio un paragone tra me e me, è veloce come un fulmine. La metafora consiste nel sopprimere questo paragone e nel dire che Achille è un fulmine. Allora, voi sentite che dicendo Achille è un fulmine, io mi mostro, come dire, attenzione, questa è una cosa difficilissima, a me no, come ansioso e rabbiosamente impaziente di dire com'è la velocità di Achille. E come se questa parola fulmine si facesse fuori a seguito del mio desiderio di dire che Achille è veramente veloce. E quindi anziché fermarmi in una comparazione, Achille è veloce come un fulmine, mi schizza fuori questa espressione, Achille è un fulmine. Achille è un fulmine, no? C'è quindi nella metafora una sorta di impotenza esplosiva. Per quanto riguarda l'esplosione l'abbiamo visto, per quanto riguarda l'impotenza, e qui è la sottigliezza, voi dite ma perché impotenza? Se io dico poi l'espressione fulmine, che è un'espressione che non c'è, no, ma capite che dietro c'è come una sensazione che non riuscirò mai a esprimere adeguatamente quanto sia veloce Achille, no? E questa impotenza mi porta a un'esplosione, è chiaro? Facciamo un esempio a voloso. Facciamo un esempio voloso, il vostro amato bene è stato gentile nei vostri confronti. Gentile. Ha mostrato una sua squisitezza. Una sua squisitezza, mi sta venendo in mente questo principio, ha portato una sua squisitezza di cui voi vi siete profondamente grati, come si dice il frontiere, grati di esistere. Il frontiere. E allora vi dite, tu, qual è il nome che usiamo per i nostri esempi? Tu Paolo, come? Paolo, tu Paolo, oppure tu, caro, sei un tesoro. Non dite sei come un tesoro. Anzi, direi che sei come un tesoro, sarebbe raffreddare notevolmente la temperatura emotiva, no? Ma ci sei un tesoro, non identifichi con un tesoro. È come se ci fosse una voglia di manifestare questo sentimento. Questa voglia è a contatto con la consapevolezza che non riesce a dire quanto lo ami e quanto lo stimi. Quanto lo ami. E esce fuori questa metafora. La metafora quindi diventa un segno di questa, di questo carattere tipico delle idee che diventano poetiche. Devono essere vive. Io dico a Paolo, sei un tesoro, ritmiche, vabbè, per il caso ci siano evidentemente delle parole una dopo l'altra, e il riflette, nel senso che prima di dire Paolo sei un tesoro, tu non ci pensi. Non è che fai una considerazione tra te dicendo, ma forse Paolo sei un tesoro o no, perché se sottoponessi a Paolo, Paolo, virgola, mi sto chiedendo seriamente se tu potresti essere casomai comparato a un tesoro, e Paolo è stato a fanculo, ma io vorrei che tu mi dicessi in modo diretto, esplicito, no? Ma se tu ogni volta parlassi con Paolo in questo modo, Paolo, vieni, potrei prendere in seria considerazione una tua domanda in carta bollata per sottoporti a un esame circa la tua eventuale natura di tesoro. Avete capito? Quindi che il carattere vivo, ritmico e il riflesso è alla base della poesia. Vediamo ancora questo piccolo dettaglio. Che cosa esprime la poesia? La poesia esprime ciò che è inesprimibile. Si occupa di ciò che è inesprimibile. È così forte il movimento amoroso di tenerezza e dolcezza che ho nei confronti di Paolo che io lo dico con una parola, sei un tesoro. Questa è una parola che può essere assunta in poesia. È così urgente il bisogno di comunicare che Achille è veloce che io dico Achille è un fulmine. L'inesprimibile è quello che caratterizza la poesia, al contrario, dice Valerino, la prosa è quello che caratterizza l'esprimibile. E per quello che ha detto prima, perché nella prosa la formulazione può essere buttata a via e rimane il concetto, no? Hanno votato il Partito Democratico. È chiaro il punto? È chiaro? Chiaro? Bene, ci fermiamo qui e adesso.